Il nostro è un racconto particolare. Narra di una donna deportata ad Auschwitz. Lei è una persona speciale. Non che gli altri prigionieri fossero da meno, o non avessero ciascuno la propria identità, o che non fossero, ognuno a suo modo, speciali. Ma lei ha una specialità singolare. È cieca fin da quando è nata. Non ha mai visto la luce, il cielo o i colori. Per questo motivo, durante la narrazione, vorremmo chiedere a tutti voi se potreste cortesemente chiudere gli occhi, così che possiate vedere con i suoi occhi. Stiamo viaggiando da alcuni giorni verso un campo di lavoro. Non vedo l'ora che il viaggio abbia termine. Da quando siamo partiti non abbiamo potuto avere nulla da mangiare, né un bagno per lavarci o fare i nostri bisogni. I soldati hanno fatto intendere che una volta arrivati avremo modo di mangiare e sistemarci. Qui c'è un odore terribile, quasi soffocante. C'è poca aria ed ho difficoltà a respirare. Inoltre, mi fanno male le gambe, ma quando arriviamo non ce la faccio più. Finalmente il treno rallenta, forse siamo arrivati. La frenata del treno è brusca ed alcune persone mi colpiscono, rischio di perdere l'equilibrio, ma resto in piedi con le poche forze che mi sono rimaste. Ah, che bel suono. Mi sembra che la porta si sia aperta. Finalmente possiamo scendere. Sento già dell'aria fresca che entra nel vagone. È piacevole dopo tutto quel tempo. Più la respiro, più sento quanto sia gelida. Sento voci in tedesco. Non capisco ciò che dicono, ma ne percepisco il tono severo. Quest'aria ha un odore strano, di bruciato. Non capisco, forse ci sono delle industrie. Tutti mi spingono. Un po' alla volta mi sto avvicinando all'uscita. Ecco che finalmente tocco terra. Non mi sembra vero. Dopo tutti questi giorni in viaggio, tocco terra. Non vedo l'ora di arrivare negli alloggi. Sento i tedeschi che si avvicinano. Sembra che ci stiano chiamando, ma non capisco ciò che dicono. Uno mi sembra che sia qui vicino. Si sta forse rivolgendo a me. Gli dico il mio nome. Lui però continua ancora ad urlare. Poi si ferma e mi strattona spostandomi. Che modi, un po' di riguardo. Non capisce che sono cieca. Mi sposta e mi ferma in un punto. Dove ci state portando? Sono confusa. Non conosco questo posto. Ho paura. Provo a spostarmi, ma lui si arrabbia e urla in tedesco. Allora rimango ferma. Mi manca casa. Lì riconoscevo le voci delle persone e gli odori della mia cucina. Spero ci permettano di riabbracciare presto i nostri cari. Faccio un passo indietro, sento freddo. Un muro gelido è dietro di me. I soldati continuano a spingerci e a sbraitare. Mi appoggio al muro. Almeno per un poco mi concedo un momento di pace e di riposo. Vi forventer os meget! En til ikke sjoen, for landet mod syd. Vi kommer her i dag, for etablerer nye handelsruter.